Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchesi, questa è la seconda edizione di quest'oggi 4 luglio di Italia in controluce, il programma di Radio 24 che tutti i giorni vi racconta la cronaca italiana ma anche lo spettacolo, la cultura, la politica. Gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti ieri in Val di Susa riportano indietro di 10 anni, cioè ai giorni del luglio 2001 a Genova durante il G8. Il reportage di Andrea Ferro. Il 20 luglio 2001 a Genova è una bella giornata di sole, cade di venerdì. A Palazzo Ducale i potenti della terra discutono del presente e del futuro del mondo. Per proteggerli il cuore antico della città è stato trasformato in un bunker. Al di fuori del fortino impazza la guerriglia con il fumo dei falò delle auto e dei negozi dati alle fiamme che ingrigisce spicchi di cielo altrimenti blu. Le bitonali dei blindati ronzano isteriche, mischiandosi alle detonazioni delle bombe carta e dei lacrimogeni. Vicino alla stazione Brignole, cortei e cariche. Lì, in piazza Alimonda, una jeep dei carabinieri resta intrappolata tra le barricate, fatte di cassonetti. E dal fuoristrada partono 2 colpi di pistola. Uno dei proiettili colpisce Carlo Giuliani, che muore sul colpo. Aveva 23 anni. Giuliano Giuliani è il padre. Il mio 20 luglio comincia con una telefonata nel pomeriggio alle 3. Sento Carlo, gli dico come va, tutto bene, sì, qualche problema, ma... E poi le notizie che arrivano dalla televisione, poi ho capito come erano anche in qualche modo artefatte, e alla sera alle 11 sono venuti a casa dalla questura a chiamarci, ci hanno portato in questura e senza troppe cerimonie ci hanno detto che l'ucciso era Carlo. E per fortuna, devo dire, sono venuti a chiamarci a casa, sottraendoci quindi a quella cosa un po' disgustosa che è apprendere una notizia così grave dalla trasmissione porta a porta. Sconvolta e violentata, Genova si accinge a vivere un'altra giornata di cortei e devastazioni in una piazza che Black Bloc, anarchici e ultrapallonari hanno reso incandescente con assalti ai presidi di polizia, al carcere, ai supermercati. L'emozione per un ragazzo morto rischia di farla esplodere e in quelle ore Giuliano Giuliani rivolge un appello affinché la rabbia non diventi vendetta. Non ho fatto nessuna fatica a pensare che avrei potuto in qualche modo aiutare uno sviluppo della situazione in termini non ulteriormente drammatici. Devo dire che lo farei ancora oggi, anche se con meno fiducia nelle istituzioni di quante ne avessi allora, perché tutta una serie di circostanze mi hanno, se posso dirla così, aperto gli occhi, ecco, nel senso che tutta la vicenda genovese è una vicenda preparata a tavolino, la voglia di reprimere, un disegno, direi, davvero criminoso. Genova 2001. Seguiranno il blitz alla scuola Diaz, la scoperta delle violenze alla caserma di Bolzaneto, le inchieste giudiziarie. All'interno degli apparati di polizia c'è chi prova a capire il fallimento di una strategia e le ambiguità di una catena di comando mai chiarita. Roberto Traverso è il segretario provinciale del SILP-CGIL. È stato un evento, se così lo si può definire, che ha messo a nudo dei limiti organizzativi importanti, perché di fronte a dei numeri enormi, insomma, di forza messa in campo, perché erano tantissime gli operatori delle forze dell'ordine impegnati in quei giorni, quello che è emerso è un problema organizzativo gestionale forte. Nessuno ci ha mai spiegato perché 7.000 erano dentro la zona rossa, tantissimi, migliaia di poliziotti, carabinieri che hanno lavorato e hanno passato ore e ore, diciamo, in piazza senza mangiare, senza acqua, insomma sono stati dei momenti difficilissimi. E quindi ecco perché dopo 10 anni non si capisce perché si parla ancora di polizia quando si vuol dire che qualcosa non ha funzionato, perché dire polizia dopo 10 anni metti dentro tutti, ed è questo il messaggio che non va bene. Quel luglio del 2001 noi, Genova si sentì commissariata da, insomma, da una presa di posizione che veniva addirittura dal di fuori dalla Polizia di Stato. E quindi dopo 10 anni noi ci interroghiamo su come mai questo passaggio di riflessione non è ancora stato fatto. I processi che seguono hanno sviluppi incerti. Per l'irruzione alla Diaz in primo grado i vertici della polizia vengono assolti. In appello il verdetto è sostanzialmente ribaltato, anche se per molti reati nel frattempo è intervenuta la prescrizione. Noi abbiamo la solenne ingiustizia della negazione di un processo per l'assassinio di Carlo e abbiamo invece avuto risultati che giudico apprezzabili per quanto riguarda le altre cose successe a Genova. Sto parlando della Diaz, dove la condanna di appello è stata molto ampia, esemplare, devo dire. Il fascicolo sulla morte di Carlo Giuliani quindi è stato archiviato senza colpevoli. Per Giuliano Giuliani però sussistono elementi affinché il caso possa essere riaperto. Abbiamo un ulteriore elemento, ci sono fotografie e filmati che mostrano senza ombra di dubbio che sul corpo di Carlo viene attuata una violenza vergognosa. Un carabiniere gli spacca la fronte con una pietrata per mettere in atto un tentativo di depistaggio illustrato dalle immagini di allora da un funzionario di polizia che corre dietro a un manifestante accusandolo di aver ucciso Carlo con un sasso. Ecco, era un tentativo squallido e vergognoso di depistaggio prodotto con un gesto ancora più vergognoso. Questa sarà una strada che cercheremo di percorrere prima o poi. 1200 feriti, 250 arresti, 6000 lacrimogeni sparati. Dai fatti di Genova il Ministero dell'Interno trae la consapevolezza che la gestione dell'ordine pubblico va aggiornata su schemi preventivi ed operativi diversi, moderni. E alla fine anche su questo fronte il G8 lascia il segno. Ancora Roberto Traverso del SILP CGL. È stata una fase molto importante, è stato anche un momento di riflessione importante perché dopo il G8 l'amministrazione ha messo in atto anche dei percorsi nuovi di formazione, in particolare sull'ordine pubblico. Non per niente la nuova scuola di formazione per l'ordine pubblico è nata l'anno dopo i fatti del 2001, quindi questo vuol dire che qualcosa si doveva fare e si è fatto per cercare di gestire al meglio quello che per noi è una delle funzioni principali, perché l'ordine pubblico noi lo sosteniamo da sempre, prima di tutto vuol dire prevenzione. Dopodiché quando certe situazioni non si riescono più a gestire, ovviamente ci deve essere anche l'aspetto repressivo. Quindi vuol dire che è servito a dare un segnale interno al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. A luglio saranno 10 anni dal G8 di Genova. Una fitta serie di iniziative celebrerà l'anniversario. Mostre, dibattiti, incontri e un corteo. La seconda storia riguarda il caso di Vincenzo Liarda, il sindacalista che si batte da anni perché venga applicata la legge sui beni confiscati alle mafie ed è per questo viene minacciato. Il reportage di Nino Amadore. In Sicilia la normalità è spesso rivoluzione. Così per rivendicare la normalità nella gestione di un bene sottratto alla mafia, Vincenzo Liarda, un sindacalista della CGIL di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, è finito nel mirino della mafia che vuole a tutti i costi fermare la rivoluzione della normalità che è stata avviata. Liarda da tempo si batte affinché il feudo di Verbuncaudo, appartenuto a Michele Greco, il papa della mafia, si è affidato a una gestione con fini sociali, un feudo che evidentemente aveva e ha un valore strategico oltre che simbolico per Cosa Nostra, che ne vuole conservare il controllo. Ecco il motivo di attentati e intimidazioni per Liarda e per Beppe Lumia, il senatore del PD che è al fianco del sindacalista in questa battaglia. Chi è Vincenzo Liarda? Cosa fa nella vita? E soprattutto qual è la situazione oggi dopo queste intimidazioni, queste minacce continue? Allora, innanzitutto Vincenzo Liarda è un padre di famiglia, quindi una persona comune come tante altre che in un modo o un altro si trovano impegnati per quello che in effetti è l'affermazione della legalità. Dopodiché da sempre impegnato nella CGIL, quindi in modo diretto a fianco dei lavoratori e delle classi più deboli. La battaglia per ottenere il bene di Verbuncaudo dura ormai da qualche anno. Qual è il valore del bene? Soprattutto qual è il valore per la mafia? Sì, io credo che al di là del dato economico e quindi diciamo che per quello che può essere il valore sostanziale di quel bene, per me è un simbolo di legalità. Posso intuire che anche per la mafia è un simbolo di potere, perché e mi dà l'impressione anche per quello che è la collocazione di quel bene che probabilmente ha un valore simbolico abbastanza elevato, perché si trova nel vallone, anche se territorio di Polizia Generosa, nel vallone del Nisseno, dove di fatti lì, come dire, si respira veramente un'area di potere mafioso abbastanza elevato, perché se pensiamo che il contesto è tra le due province di Caltanissetta e Palermo, si trova nel mezzo tra l'Alba, per quello che nella sua storia ha rappresentato, Vallelunga, poi c'è, che sono entrambi in provincia di Caltanissetta, poi c'è Valle d'Olmo, e alle spalle di questo bene c'è Marianopoli e Mussomeli. Quindi in un territorio abbastanza agricolo si capisce bene che cosa può significare strategicamente quel bene confiscato e quindi tolto alla mafia. Ci sono molte cose che non tornano in questa vicenda, soprattutto per quanto riguarda l'ipoteca. Cosa c'è che non va? Guardi, ci sono situazioni che sono paradossali. Per farla, se vogliamo, in modo sintetico, quel bene fu acquistato nel 79 da Michele Greco, sottostimato, non stiamo a dire quando e come. Dopodiché nell'80 viene acceso un mutuo di Michele Greco di 1 miliardo e 500 milioni. Questo qua fatto nell'80 per miglioramenti fondiari concesso dalla Regione Siciliana tramite la Sicilcassa. Nel 1982, in pratica, Michele Greco è un latitante, quindi dall'82 all'86. L'ipoteca in quel bene viene iscritta in modo volontario a favore del Banco di Sicilia il 16 gennaio del 1985. Io mi sono chiesto e chiedo come si può iscrivere un'ipoteca volontaria, se la persona a cui ha sottoscritto l'ipoteca è latitante. Quindi ci sono delle anomalie che andrebbero approfondite, anzi, che credo a questo punto la situazione qui è abbastanza di conoscenza di moltissime persone, credo che merita un approfondimento importante, specifico. Perché qual è la situazione del bene oggi? Chi ce l'ha? Chi lo gestisce? Una delle ultime cose cui si è verificato, quindi un provvedimento del 6 dicembre del 2010, a questo punto possiamo dire, e forse una delle cose più importanti che si è verificato, è che l'Agenzia dello Stato ha riacquisito il bene, ha nominato un nuovo amministratore giudiziario, quindi inizia un percorso di legalità che dovrebbe portare nuovamente il bene a quello che è la finalità sociale. Italia in controluce, seconda edizione, torniamo domani 6:30, Radio 24.